del 60. No, no, dimmi il fondo scala dello Schmidt. C'è un fondo scala. A sinistra c'è, ci sono dei numeri, e dici qual è il numero più alto. Lascia perdere il grafico, Ma lo Schmidt io non lo vedo. Non so dove cercare. Aspetta, ma mi sembra che hai fatto le scuole alte. Insomma, ascisse e coordinate. Qual è l'ascisse? C'è il numero di fondo scala. Insomma, qual è il numero più alto, guardando in quella barra a sinistra? 100. 100? Mezzo. Wow. Allora, c'hai, quindi, c'hai un coso, un gap di 100. Questa che ti interessa a te, a quanto arriva su questa di 100? A metà, a quanto arriva? Ma come, non ci siamo capiti? Non ci siamo compresi? No, no, ma mi hai detto 100, quello volevo sapere, proprio quello. Non capite benissimo, io ti ho capito. È 100 il fondo scala, io volevo sapere il fondo scala, tutto lì. Adesso dimmi, su questo fondo scala, quanto ne occupi? Il 50% lo superi? È da 50 a 100, segnalo il DBM, così stai dicendo. Aspetta, che non ti ho capito, c'è gente che non mi ammazza. Come? Tra il 50 e il 100 sono io. Quindi potrebbe essere un numero qualsiasi tra... potrebbe essere 80. Meno 80, meno 70. Comunque, tu mi hai detto che è circa meno 70 da occhiometro. Perché non so su che base ti stai... base mi stai dicendo che è circa meno 70. Comunque, dimmi una cosa invece, sei riuscito a aumentare il segnale rispetto a prima almeno? Sì, è quasi a 70, meno 70 quasi, capito? È quasi a meno 70 le barre, insomma, quasi. Tra il 70 e l'80, a metà, tra un 75, no, meno 75 dovrebbe essere. E prima era circa, vabbè, hai guadagnato a occhiometro, ci puoi riprovare. Ferma una così tante, ma ce l'hai appoggiata, mi hai detto che c'è un cavalletto di macchina fotografica. Ehi, l'antenna è sopra un cavalletto di macchina fotografica, è bella ferma la macchina, l'antenna. Posso girarla io, capito? La posso girare, però il cavalletto rimane fermo. Ascoltami una cosa, poi passare direttamente all'azione. Puoi ruotare di gradi senza ruotarla verticalmente né orizzontalmente, cioè ruotarla di polarizzazione. Posso provarci. Mi hai capito cosa intendo, sì. Senza muoverla né orizzontalmente né verticalmente, ruotare la polarizzazione, proprio a piccoli spostamenti, 2-3 gradi per volta, per trovare anche la polarizzazione della riflessione. Perché non è detto che sia esattamente verticale, esattamente orizzontale. Infatti. Aspetta che provo. Mi alzo un picco fino a 70 quasi. Aspetta, mi alzo, sto aumentando di segnale, dentro di casa. Allora. Un picco un bel alto è uscito. E inseguilo. Probabilmente hai fatto tu il riflettore lì nella stanza. Ma ce l'hai fuori dalla stanza o all'interno? Aspetta che sta alzando. Ok. Poi mi dici se stai ruotando la polarizzazione o cosa stai facendo. La sto ruotando solo. La polarizzazione non l'ho toccata. No, ma ruotando nel senso verticale, in orizzontale o in verticale? orizzontale. Ah, tu mi avevi detto che avevi raggiunto già il picco massimo, allora non avevi sbagliato. Infatti io sto cercando di farla migliorare sempre di più, però se tu mi stai dicendo che cambiando la polarizzazione potrebbe migliorare, meglio. Tu mi stai provando già l'inghippo che avevi orientato già male da prima. Aspetta che forse abbiamo risolto. Cosa hai trovato? L'hai trovato? Cos'è? Bisogna idrografico, hai dato rispetto se sta brincando in aria. Cambiando la polarizzazione però. Ruotando? E guarda, 70, esito, ma adesso ho migliorato un po' di più. Così com'è dovrebbe andare meglio. È più in alto di un me, di come era prima, eh. È proprio 70 adesso. Come? È proprio 70 adesso. Vabbè, io mi fermi lì, che... poi magari ci farà la mano. Adesso però un tentativo dovrebbe andare a buon fine. Infatti adesso ci provo. Mi devi dire quando devo bloccare quella situazione per... Vabbè, già te lo dico io. Sì, appunto, già te sto facendo roba qua. Non... sto cercando di rullarmi la canna, però sai che... e più si rimanda meglio è, e quindi si smette di fumare. Vabbè, ho riavviato la situazione, a vedere se riusciamo a fare qualche cosa, perché se lo vedo funzionando poi mi sistemo quell'editor e faccio tutto copia e incolla. Ma guarda, come mi sono andati più che altro e facci un po' la mano a queste cose qua, poi almeno sembrano una coglionata. Lo so, tu mi dovresti mandare per posta quel file che devo scrivere nell'editor, tutto completo come ce l'hai tu, così non sbaglio, in sequenza proprio. Guarda che io non ti ho mandato la poesia della Vispa Teresa, ti ho mandato la sequenza che si usava a te. Io ti mando esattamente tutto l'enorme file che ho io, che ci sono cose che a te non ti serviranno mai. E tu metti giù un segno di penna a fianco, quelli che non mi servono. E io faccio le cose come devo fare, capito? Perché mi serve di cambiare quei numeri, i tirini, già mi hai capito. Quella è la cosa principale, no? Ma quel file che avevo io, cose che altri non capivano niente, perché riguardava una mia rete personale, e cavolo te ne facevi. Potevo mandare completamente quella roba, sei solo confuso. Tomato, quello lì che funziona, io quelli davanti a te ho usato, non ho usato altre porcate, sono quelle 5 righe e basta. Sì, però a me dentro quelle 5 righe c'è anche quello per cambiare i numeretti. Devo cambiare i numeri io, già lo sai. È fatto di un nipote che è un cranio. No, no. E quelli tuoi funzionano, quelli di lui no. E tu non sai che non funziona? Ah, io sono un po' strano che gli funga. Naturalmente ognuno ha i suoi metodi, io agisco direttamente sull'hardware, non sto lì a passare per le vie di mezzo. Allora, ho dato il primo comando. Ma già col primo comando si vedono i DB, eh? Il primo comando? Aspetta. Meno c'è scritto 0 sotto. Devo non fare il coglione. È zero, mi sento. È zero, vuol dire quando scala, è possibile. Vabbè, continua. Sto dando il secondo comando. Ricordati di chiudere la prima finestra, che è l'unica che vuole chiusa. Controllo C. Mandalo quel comando lì. Prima o dopo, quando ti piace, poi te la chiudi. Cioè la chiudi, la fermi, non la chiudi. Ho capito. 11 milioni. Il secondo è andato a buon fine. E vorrei vedere. Il terzo è l'associazione. Ti dà un po' di, deve avere un po' di pazienza. Vabbè, la sto dando. Fatto. Associato? Ehi. Ok, hai visto? Ma subito me la data, immediatamente. E credo, se non c'hai le cose basilari, l'hai visto qua, se devi scegliere, aspito. E mo puoi partire col Maramaus. Fagli le iniezioni. La quattro è partita. Come? È partita. Sta rullando le schermate, le righe. No, le righe ancora no. Sta a 400 pacchi. Dai, no, aspetta un attimino. Fa succedere. Verso 3000 cedere. Vediamo, vediamo. E dopo apro l'altra scena. Metti già 1000 arrivi. Ancora non ha beccato, perché sono passati 10 secondi da quando l'hai detto, dovrebbe essere già 100.000. Ma cosa 100.000? 1600 spicci. E io ancora ho fatto la schermata, praticamente. Ma sempre associato, sì. Ehi, va. Sicuro? C'è una schermata vicino, c'è scritto su Jetpool. No, vedi se c'è il tuo, numeretto nell'elenco degli associati. No, quello lì no. Allora, non ho capito, c'è il tuo numeretto nell'elenco degli associati. Vabbè, aspetta, poi apprezzo. È un po' tosta la cosa, perché non riesci a trovare l'orientamento giusto. Titolo Jason Successful, poi c'è una faccina. Ma vada via, chiave. No. Ma che devo mettere la portante? Sono stato costretto a metterti la portante. No. È una ringa troppo lunga, vai. Tanto non ne capisco un cazzo. A fonte di niente. Basta digitare quello che hai detto su Google e lo capiscono solo istante. È arrivato a 5.000 e non ha mollato niente. Aspetta un altro pochettino. Vado via. Ma siamo su un associato, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma guarda, intanto alla fine si arrende, te lo scrive chiaramente che mi controllare se si è associato. Cosa devo fare a questo punto? Ripartire da capo, rifare l'associazione. Comunque ce n'è un associato alla vittima, nella seconda scelta. Se non sei tu? No, deve essere l'altro. Probabilmente state entrando in conflitto. Sicuramente state entrando in conflitto e prima o poi uno di due cede. E cioè lui, bastardo. Chi la dura la vince. E infatti è a fianco a lui, alla vittima. E lo possiamo disassociare a forza. Basta dirmi come fare. Per nulla, ma già avevi tolto un media e mi rompendo di cazzo. E quello più vicino è. Ma vabbè, a questo punto poco c'entra. e già lui sotto attacco. No, blocca, non va. Cosa succede? L'ho bloccato. Chiudi tutte le shell. Ti hai insegnato l'attaccante? Quello che è associato a lui. Non te l'hai segnato, no? Ma non mi hai detto nulla tu. Le ho chiuse tutte. Te lo prendi in comodo posto, ma potevi passare attraverso lui tranquillamente sull'istante. E dopo c'è scritto, si può trovare in quelle cartelle che ci sono scritte install SH, quelle che ci sono sotto. Beh, adesso quelle devi cancellarle tutte quante, altrimenti ti incasini. Tutte trash, cellatela. Segnato ora il numeretto normale o camuffato? Si capiva, no? Ah, ma non era camuffato, normale era. Cioè, è uguale a quello là, si può dire. Solo che cambiavano i numeri, giustamente. Vabbè, quindi era a caso, va? Vabbè, io me l'avrei scritto perché l'avevi disassociato per sempre e non combatti. Parti con un altro attacco. Vediamo un po'. No, tanto questo non ti serve solo per esperienza, eh. No, perché ce l'ho in mano io, quello. Sembra una sfida. Infatti. E l'avevi dato io l'associato lì. Pirata, ho capito. Mia nipote. E vabbè, c'è bisogno di fare nome e cognome. Sì. E mi è piaciuto un bel messaggio sul PC. Vabbè, si usa Tux, c'è poco da fare, non per fare niente. Però bloccarlo sì. Vabbè, la prima riga l'ho lanciata, adesso lancio la seconda. Ricordati di bloccare di Ctrl-C solo la prima, altrimenti l'altro non funziona. Via, solo la prima, adesso metto la seconda. Giù. Associato, segnati il numeretto. L'ho visto già, e c'è. Segnato. E poi se cazzi sua. Fatto. È nella seconda cella l'associato. Che faccio adesso? In terza metto. Tu, cambio marcia. Alto me, che cazzo di togliere il commiato l'altra sera? Non ho cambiato niente, ciao, buonasera. Avevo trovato un messaggio per, ci aveva detto bevi cosa, l'apparecchio di Stefano, poi ti devo richiamare, poi ci sono diventato tardi, non ce l'ho fatta. Perché io sono entrato subito in frequenza. Ho visto che sembrava una presa per il culo, allora ho chiamato Stefano. Mi ha detto che non sapeva niente. No, allora Stefano c'ha dei problemi con cosa, col keyboard. Quando va in trasmissione dà un verifichi negativi. Capito? Quando tu metti il wattmetro, da 20 watt scende a 10, capito? Guarda. E poi c'ha il fischio di trasmissione, c'ha sempre. Sì, infatti. L'ho chiamato, me l'ha detto, il fisco è rimasto, guarda, te l'avevo detto. Io ti ho eliminato il problema del cazzo del rumoraccio del DSP. Probabilmente, cioè, era da controllarlo anche col microfono suo. Questo no, vabbè, lasciamolo così. Il fischio è un problema a parte. È un rientro del microfono, è una cosa normalissima proprio. Su quell'apparato lì. Vabbè, là. Catalaus, faccio un attimino il bianco, se permette, sì, ingegnere. Ecco, ma vado in testa. Aspetta, ho alzato il volume per sentire Antonello, è metà di saturazione l'apparato. Come? Se vado con la testa, via. Sì, sì, vai come procedura, vai in procedura proprio, non c'è niente da sbagliare. Sì, ti vedi se verso 2005, 3000 cominciava a fare le schermate di risposta. Ma non me le fa, non mi ha associato. Guardati il coso, il numeretto tuo. Ma non so come fare. So come mettere il monitor e come disattivare quella storia lì, però non so come cambiarlo. Non vabbè, adesso qua non te lo posso certo dire, non te lo ricordi cosa avevo scritto io? No, è quello il discorso, se no me lo sei ricordato. Io adesso disattivo il monitor, così è. No, il comando che faccio io l'ho fatto tutto da solo. Attiva, cambia e riattiva. Visto che lo volevo io quel comando. Vabbè, devo sentare una quindicina di minuti, altrimenti succede un casino meno qua. Se ci sei, penso ci sei, devo entrare una quindicina di minuti circa. Non lo so se ci sono, è quello il discorso. Va bene, non c'è problema, continuiamo altro giorno. No, non c'è da mangiare queste cose. Cioè, ce le potrebbe andare a mangiare veramente, no come. Vabbè, però ce la chiusiamo tu va, maledizione. Ok. Allora chiuso, mi saluto. Ciao Antonio, ciao Natalaus. Tu comunque continua a ripetere quando c'è il tempo, così almeno ci fai la mano con i comandi. Quelli già li so fare, adesso non sbaglio più. Ciao. Se non sei associato non fai un cazzo, è inutile continuare avanti. Attento, anche se non è più controllato. Vabbè. Grazie. casa non ce l'avevo ieri sera. Noi ci siamo domani, no? Ho un po' occupato, sì. Andiamo a passare domani, si può passare domani, fai in giro. Vabbè, quando sarà, quando capiterà adesso? Passerà a salutarti. Quando vuoi, non c'è problema, se sono a casa, non problemi, non problemi. Solo basta telefonare, ti abbiaccia più un telefono. Capire con la capologia ce l'hai tu? Non riesci a capire che cosa, che problema c'è? C'è un rumore che entra, non riesci a comprendere cosa sia. Non so, controlla se c'è qualcuno usando qualche frullatore vicino a casa tua, magari non è scalmato che entra il rumore del frullatore, potrebbe essere anche qualche televisore magari che ha dei problemi e ti entra nel conoscere di quello che ti crea il problema. Ma è vero, Rabuassi, forse è un motore che vive la fontana, cioè che il motore dell'autoclave. Sì, no, ma il motore dell'autoclave cioè, della fontana è quella pratica ricicla sempre la stessa acqua. Ma perché che te la gente in basso e paghi il suo, Probabile, magari sarà quello che ha partito qualche cosa, qualche filtro. Ma sto pensando che quando si mette in funzione tutto faccia così. Allora se vedi te si stacca un motore, perché poco fa non ce l'avevo questo rumore. Sicuramente quando entra in funzione quello, l'acqua, gli altri spruzzini. Allora appunto questo coso. Ah, ho capito. Niente di chiaro. Cazzo, è così. Sicuramente quando sono tutti i motori in funzione me lo faccio. Sarà quello. Paga chiaro signore, si intende proprio. Secondo, magari tutti canti in pari fanno un casino niente. Fra poco di tu dai torrenti lì più bene. Io qui già c'ho i tralicci che mi fanno compagnia ogni tanto. E mi sento poco meno male, ma perché non c'ho l'antenna l'antenna in su. Con questa antenna lo sento molto di meno, ma se dovessi mettere davanti ma guai. E ricezione è tabù qua. Che antenna stai usando? La piccola? Che pedazzo di antenna sto usando? La specie di Grand Prix che ho fatto. Ecco, perché devo stare usando l'altra? Come battuta di eccezione lo uso ogni tanto. Quando c'è qualche apparecchio da riparare, penso quella e la uso come unico, non ho capito, per fare prove di trasmissione di eccezione. La Stormo 27 quella, non è quella originale, se no è stata migliore anche. No, non è la Stormo 27, è una specie di bazooka. Ma già va bene lo stesso. La uso per poter aggiungere se mi va bene. Appagata. Oh, Ale, mi devo assentare, dai, perché mi hanno chiamato. Ce la risentiamo, dai, ce la risentiamo più tardi se ci sei, io devo fare commissione. D'accordo, ci sentiamo, altro ciao, alle prossime. di tutto il recupero. Sì, guarda qui, c'è stato il TV, quando con la mia figlia, quando la femmina, c'è lei, c'è, io non riconosco la mia voce, mi manco, perché si è un po' più leggermente invecchiata, la vita si dica, non riconosco la mia voce, e poi questa mi sembra lei, finché non è uscita la scritta, allora ho detto, c'avevo ragione io. Volevo dire già l'altro giorno, solo che non ti ho più sentito. Solo che avevo quando parlavi che quando sei stato il tipo già lo vedi subito. Ma io veramente lì non sapevo manco che questo senso di TV esistesse. Cioè, guarda, fa parte di teologia, fa parte, capito? Ah, ho capito, è un programma di teologia. No, è proprio, fa parte della, del bouquet di teologia, diciamo, c'è senso di TV, teologia 3, poi c'è teologia normale e poi c'è l'altra TV, non mi ricordo adesso come si chiama. Comunque fa parte del bouquet di teologia, c'è quattro canali teologia. E tu non hai telefonato per salutarla. Ti è acqua fresca. Vabbè, non mi pare la vera con i genitori quello che è successo, non è colpa sua. Ega. Buonasera Tore. Ora sono venuto a dirti la frequenza e ti sei scappato. Molto male. Un micidiale con una sparata precisa, questo vicino lo fa anche chilometri di raggio, chilometri. Quello va bene, guarda, entrano i ladri in campagna. Guarda, scusate, ma guarda, tanto due sparate di là. Basta, no, no, me la chiamerai con rischio a 2-2, poi chiudi però di un tappo, perché c'è un tappo per chiuderlo, direttato, poi ingrepperete a fare. Scusa, ingrepperete. Poi, nel corso con l'accendino, cazzo, e fate il volto. Con il gattino fucile, se fa. Ma povera, sparo c'è. No, no, invece la compressione, la... Allucinante, Ale, non te lo fai fucile. Ok, è meglio fare un coso per fucile, la verità. Fai saltare qualche cosa con la corrente. Ui, tu sei sempre quello che sembra a Kira, Allora, la ciappa ci sono le patate, boh. A parte le patate così così si spaccano, si frantumano. È questa cosa che ci metti dei pallucci in mezzo alle patate, allora sì che ce ne fanno l'anno. Sicuramente c'è qualche altra cosa che parte bene, che è tipo come si faceva con i cannoni prima, nel tempo di guerra, che siccome si caricavano i cannoni, così carichino... Come si caricavano i cannoni in tempo di guerra? Per telefonare, guarda, oggi sono disponibile, ti fai trovare a Sassari, andiamo 5 minuti e ti rivedi. Magari su un altro canale, dai, un canale dove non arrivano tutti. Allora, QRZ non può essere con... serve a 9 comunque, dalle 8 a 9. Sono in compagnia di Alessio e dell'amico Cori Daiti, vediamo un po' se li ascolti. Alessio, avanti. Sì, l'ascolto, vedo che mi ha ascoltato. Sono 5, arrivi qua, radio 4. Negativo, non l'ho sentito, eh. Non lo senti, Alessio? Vediamo un po', Tore, prova a tua, per... Io sono proprio Sassari Centro, Alessio è Sassari Periferia, Tore invece è diciamo zona limitrofe. Io mi sono qua a Belluno, penso che tu sappia dove sia Belluno, sono operatore Piero e permetto in quel di Belluno base fissa qui, mi arrivi con un ottimo segnale, una radio. Cappa, ti ringrazio. Per il segnale per la radio, ma anche tu arrivi bene, dai, in mancanza di QRM arrivi bene. Tore, avanti per l'amico di Belluno. Hai sentito, Tore, l'amico di Belluno? Thank you. ricoveri in Italia. La turbo mi piace meno, la Mantova 1 e la Mantova 5 mi piacciono bene, però non le stanno più facendo, non so che c'è fuori produzione. Quindi non penso che questa sia la meno. Non lo so quanti elementi sia, questo non te lo so dire. Ma la direttiva, non sai, per riuscire a bene di segnale deve avere un'antenna direttiva lo stesso. Perché se una è verticale e l'altra orizzontale, non prende come dovrebbe. No, non è più proibita. No, prima era così, ma adesso non è più così. Qualsiasi tipo di antenna puoi mettere adesso. C'è anche gente a Sassari la direttiva per la 27, no? Io non ne ho messo, non mi interessa, però c'è gente, ho visto che c'era. E c'è anche il rotore e tutto. Infatti sono anche da usare gli ex. No, non c'è più quella legge che ti obbliga ad un tipo di antenna prima, anzi per questo non si può pensare manco la 5 ottava. Poi una direttiva la può anche usare per fare ascolto in certe frequenze, perché no? Come tutti gli altri, anche per l'ascolto, per i ricevitori usano quella musica, la ricezione, ma lei non si fa dispone, mi stai studiando. La multibanda, come sempre c'è tanta gente, la multibanda basta. Ricevi tutto. Ma se vuoi comprare, chiedi a Gigi Vulcano, che era lui che stava interessando, me l'ha chiesto lui. E a Gigi. Sì, ma quello sta prendendo tutto quanto, sta partendo fuori, quindi non lo so se non lo becchi in fretta, non la c'è più, eh. Sta partendo fuori, sta prendendo un'attività da un'altra parte. Dell'esperienza la mia parte. Sono curiosissimi. Stava sbaraccando tutto, stava andando via anche da casa, quindi si è venuto alla stazione. E niente. Adesso vediamo. Se non si può. E cosa è quanta? Stai prendendo per qualcuno oppure per te? veramente un po' di ascolto lo faccio, ma non mi interessano quelle frequenze, è troppo impegnati a fare. Sì, ma con i soldi che ci spende devi fare attività, devi seguirti in contest, tutte queste cose qua, se no, cosa ne spendi a fare tanti quei soldi solo per stare a ascoltare? Io stare a ascoltare, c'ho un ricevitore, l'ho portato e ascolto dove voglio, perché va, si è 1005, quindi a voglia ascoltare. Io prima ascoltavo l'internazionale, adesso l'ho messo, ma non sento più nessuno, forse l'hanno tolto. Diciamo che questa apparecchiatura radioamatoriale costano un po' di soldi, prima di tutto. Anche quella della 27 costano, ma non come quella radioamatoriale. Bene, l'ultimo apparecchio che ho preso ho speso 460 euro, ed è un baracchino. 3.40 per la 27, se è stato modificato va bene. Sembra che lo stiano coprendo, sembra la laterale. so. Non so, c'è qualcuno che muda, quando muda da lui e non si riesce più a tirarlo fuori. Che si ritenga salutato l'amico Lago di Garda perché non riesco più a tirarlo fuori. Mi dispiace, ma non riesco più a sentirlo. Vedete, ci sono parecchie difficoltà perché c'è un sacco di casino. E anche dipende dalla radio che c'hai, ci sono persone che il casino lo coprono tutto e fanno un bianco attorno a sé senza la loro voce e basta, dipende da quanti watt. Quello che stavo parlando ieri ci aveva 1000 watt. Dove è inteso? Arriva a 9:20 qua. La zona di Taranto, mi pare, quella zona lì. Ora male. 1000 watt c'è un vento. Ho detto, quanto stai usando? 100 watt? No, 100. Come usare in più? Se mi siamo zitto. Io ci arrivavo bene lo stesso, però... No, io ci arrivavo a 9:20. va bene lo stesso, non è che ti dici che ti rifai, se ti dà buona un'altra capituria, va bene. Ma un po' tutte le antenne, se le metti sul tetto e sei in alto, hanno modo di trasmettere meglio. Ma io dico che non se ne abita nessuno, una scommessa, e se te la prende l'antenna rimessa. Quanto ho telefonato a mia tecnocomunicazione per l'alimentatore, mi metto a spedirglielo che lo porta nel laboratorio a controllare e adesso non sta più facendo nulla. Siamo, vai che sta un grosso con la spedizione, da un lastino. Io da quando ho toccato il tastino non sta più facendo, buh. Io ho trovato una volta, sicuramente chiuso. Ma erano gli sviluppi che erano incastrati male, devo spinti, capito? A volte batte una cazzata, quel che faceva, quello lì sicuramente come toccava non toccava. Allora, qualcosa ti ha fatto cattare la luce, tutti quanti i seggiosi. E hanno il difetto lì, hanno. No, mi si della salute era passato tutto, non era questo, non era guardato anche per porto, lo ricordo. Comunque se va bene magari era una fesseria. Mi ha preso nome e cognome, tutto quanto, mi ha detto spediscimelo che lo mando in laboratorio, lo faccio controllare tutto. Se vediamo che c'è qualche difetto, coso, se qualche fesseria, ok, se c'è qualche difetto, ma dico te lo cambiamo e te lo mandiamo nuovo. Di nuovo quello, sì, e le no, no, quello non lo voglio più. Se ha difetto grosso, non lo voglio più quell'alimentatore, mi mandi quello da 35 ampere e il resto mi mandi microfoni e roba del genere. Ah vabbè dai, ma dentro non c'è problema. In qualche maniera bisogna fare. Vabbè, ma magari se non ha nulla, se non lo fa mai più, va bene, dai. Adesso tu l'ho lasciato acceso ieri, avanti ieri, oggi, ma non l'ha fatto. Di solito prima come ti attendi lo vazia, puff, si surava. Fatta muoverlo. Fatta muoverlo anche. Sì, l'ho anche scosso. Non ho fatto niente, allora vuol dire che ti cattava quello, una fesseria. Che va a 40 video, ogni volta pagava neanche su coppia, che vuol dire con i 4 video e basta, era ne voce sopra, sotto, dietro, avanti, io. E dopo sono tutte diverse le video, capito? Allora, io ho provato a pensarsi, l'importante è che non lo portiamo più. Infatti io mi sono fatto il disegnino e ci ho messo le viti davanti al disegno, dicono che non sbagliassi, man mano che lo piantavo prendevo la viti dal disegno, io sono occupato, mi ingegno subito. E cosa ci vuole? Bah. Non è che vuole la laurea. Piano piano uno già pensa se lo fa. Ma tu non c'erano i semplici buchi nelle viti? C'erano delle linguette che incassavano, delle linguette col buco che incassavano in un alloggiamento. Se queste linguette si muovevano non combaciava il buco. Ed era una paranoia, non è come ti dici tu. Già si fa piano piano. Come si fa, certo, ma ti dà rogne. Anch'io ho fatto il buco, ho cercato, ho preso un punteruolo, ne ho entrato appena appena e fatto combaciare, perché dopo che chiudi gli altri, se non combacia uno, è una baranoia. Non so già che rompo le scatole, ci mi abbino a un pulla di leva. C'era una specie di binario, no? Dove era incassata questa piattina col buco. Allora andavo avanti e indietro, capito? Se quando metteva a posizionarmi, se sbagliavi posizionandola, quando l'hanno richiuso gli altri era un problema. Già riconosco quelle rotture di scatole, già, che ci fu la paro. Allora, potete fare un buco nella ramiera e basta, come fanno tutti. No, non ti posso che si piatti. Già lo so, già. Troppo. volendo. Ma non c'è pane? Secondo te non riguardano queste cose? O il grande Giappone o la grande Cina? O a Napoli muore? Allora, o il Giappone o la Cina? Ma questi qui sono proprio, se lo sono sicuramente roba italiana. Non ti attiro di cui io, non dove sono fatti, io lo controllo. Come se Taiwan, ma lo si chiama o Cina. Comunque, ho preso l'alimentatore, anche quello che ho cambiato le lampadine, quello che ti ho detto, ma che avevo preso da Fusata, con lo trasformatore in terra. Quello che pesa 3 volte di più di quello da 50. Beh, ma è un altro tipo di cosa, e chi c'è alimentatore se non è alimentatore, chi c'è un alimentatore a scheda, è come quello del computer. Lo so, ma non le stesse funzioni. Lo so, hanno le stesse funzioni, sì, perché non ci fanno. Sì, così è già, no, la stessa funzione. Oggi ho detto che c'è la pizza da fare la crema catalana, ma è fatta? Come si fa? Vabbè, la cammeo la vende, no? C'è il caramello, però che non è fatto. Poi devi mettere 200 grammi di banana, 300 grammi di latte, aggiungere questa polvere, come potrebbe essere budino quando lo fa, e girare. Lo devi lasciare circa un'ora a raffreddare. Dopo che è raffreddato, li metti questa polverina di caramello e lo metti in forno, però solo col grill, e con il forno aperto, perché la panna non deve cucinare, solo bruciarsi il caramello, lo zucchero che c'è sotto, no? E ti viene questa cosa tipo il budino, così con il caramello bruciato sotto, come buono. Gabba, non l'ho mai mangiata, lo sai. No, buona. Si usa la panna da cucina, se ne mette una, no? Quindi da 200 grammi. Il latte, 300 grammi di latte, con la polverina fatta girare. Un'ora lasciata a prendere, si fa come il burino, poi prende il caramello, lo metti sopra il forno, col grill solo. Però. Neghi su bruciare o retrattare? Bruciare la crema? Ma non deve cucinare, mi capisci la teoria, non deve cucinare il resto, deve solo bruciare la crema che c'è in superficie, diciamo lo zucchero, lo sai, deve bruciare solo quello, infatti devi fare col grill e col forno aperto, di modo che la crema non cucini. Per fare quella la crema catalana ce li chiedevano anche a noi le pomolette e tutte queste cose proprio ai cuochi per fare quella roba lì. Che pomolette si mette? Del bruciatore, di quelli piccolini, di quel bruciatore. E ci vogliono le pomolette, quelle da campeggio, no? Quelle piccoline, quelle del gas. E quello lì c'è il campeggio. Quello lì. Quello lì c'è un fornello a casa. Quando finisco le bombole non mi frega mai, accendo quello lì e cucino con quello. Non ha mai fatti da me. Brava. È una cosa del genere, Giulia. C'è una cosa del genere, so che ha portato il fornellino, c'ha il bruciatore piccolo. Ho capito. Sì, anche i buchi. Arrivati i buchi. Quelli che arrivano da Olanda, per far vedere che sono stati, li bruciano i bruciatori. Ah no, quelli lo fanno al mattatoio. Chi trova via, chi si trova via, quando se le fa ancora, cioè anche le fanno. No, quelli però usano i bruciatori grandi. Sì, ho capito. Sentito il tono. Io ti noto, adesso viene a devo subire. Penso di no. Io quando si è cantato a dare un coso già si è chirriato. non lo senti mai. No, sarà lamentoso. No, non ci lamenta mai, vero signor Nero? Bravo, proprio un bravo gatto. Tu dove lo metti lui sta? Va bene. Non graffia nemmeno, lui. No, quando è andata lì la visita, era buono buono, proprio la dottoressa l'ha fatto proprio da fare, non si è girato. Attenzione, Rello Arcobaleno, si ascolta il doppio rumbo alla città di Sassari in nord Sardegna, chi chiama? Intendi, e ti interni di burro. tramutavo, però si chiarevi più forte in zona fascia che in zona alta. Non vedevo te così puro. Che fa entrando? Io sono qua. Buonasera. Buonasera. Poche parole siamo oggi. No, è che sto... sto facendo anche un'altra cosa. Ah, capa, per continua. C'è stato uno che ha fatto prego, va. Adesso facciamo la chiamata. Attenzione, binario 41. Se ascoltate la terra sarda, città di Sassari, e l'operatore W che fa chiamata, gatta. Mette nessuno, nel Dugaio, va anche tu. Quindi rientri Sì, si entri quando è mercoledì. Martedì, Anto. Martedì. Si dentro la lama carica. Prego, prego. Pulla, pulla. C'è la dritta con l'Alfa Radio, e tu, Pierino. Poi senti, se te l'hai trovato lunedì. Ah, lunedì 20. No, perché mi sono fatto il campanello, sono andato a rispondere. Thank you. cioè non dovrebbe uscire secondo i tipi di malattia, secondo i tipi di malattia che ha. Certo, se la febbre non deve uscire, è normale. Ma se ha una cosa tipo la mia, un'operazione all'occhio, se non fa sfusi e va in macchina con altre cose, cosa rivalzi? Invece non puoi uscire lo stesso, ci sono gli orari. Sì, vi stanno chiamando. Ciao, Volta. Ciao e buonasera a tutti. Stanno chiamando da Marsiglia, vi stanno chiamando. Molto la Breaker. Avanti. C'è qualcuno che mi ascolta, per cortesia? È certo che ti ascoltiamo, in isola della Sardegna, la città è Sassari. L'operatore è Gianni Doppio Rum che ti super cordializza, avanti. Ah, sì, tu ti trovi in Sardegna, nella parte di Sassari. Cappa, tu dove sei? Io mi trovo a 100 km in nord della città di Marsiglia. Cappa, a Marsiglia, bene. La Francia. Zona francese. Una bomba. Sì, ma tu parli francese, per dire una prova che io si via falsia, ok? Che parla francese. Sì. Bonsoir mon ami, je t'écoute très bien, la terre d'Ier est merveilleuse. Téléphonique, la terre d'Ier est téléphonique. Bon, scappato. Attention mon ami de Marseille, c'est que de la Sardaigne qui ti fa belle. Ici, il y a la station del Taromio. Station de la Sardaigne. Oui mon ami. La terre d'Ier est téléphonique, merveilleuse. No, ma è la verità, sono... Sono vero, vero, vero! Un... Ma come parli francese così? Ma l'italiano così bene? Te lo giuro! A Sassari! No, non c'è bisogno. Tu parli in italiano, entra bene, mon ami. Come arrivo lì a Marsiglia? Dai, sono in compagnia anche di altri amici, così te li mando avanti. Com'è il mio segnale lì? Come muore il segnale, mon ami? Ma tu sei un camionista? Io sono italiano. No, ma tu sei... Pizza. No, io metto buco alla maison. Se lo fa bene da francese, boh. Ma tu parli francese? Boh, io non ne capisco nulla. Volpe, buonasera, avanti. Sì, no, sono intervenuto poc'anzi per far entrare questo marsigliese, ma niente di particolare, perché stavo facendo delle cose qua. Siccome insistevo, ma vediamo un po' se riesco a distrarli un attimino. E vi saluto tutti quanti e chiedo scusa per essermi intromesso così. Comunque niente di particolare, no, volevo sapere appunto se questo amico poi era entrato e che cosa ha combinato. Ma me mi pare italiano, è un italiano strano, un italiano, forse sarà nel cantone, boh. Non penso che sia proprio francese francese, perché il francese non lo parla, parla italiano. No, io no, non è un italiano buono, è un italiano confuso, perché Marsiglia poi non è che sia poi tanto distante, evidentemente è qualche personaggio che ha avuto a che fare con l'Italia e probabilmente sia stato magari lavorando qui tanti anni e ha ancora questo accentino così, però si sente che non è italiano. Cappa, Pierpaolo, avanti. Io per il momento mi sono tutti già e sto facendo una cosa, magari ci sentirò pure quella, mi sono tutti per voi. Ehi, ehi, ci sentiamo. Avanti, Anto. Qua sei a sentire Volpe. Volpe ha detto che è entrato solo per avvisarci, non vuol parlare oggi, gli manca la parlantina. Capo, mi sta arrivando forte oggi, No, scusatemi un attimino che è entrato un geco qui dentro in stanza e sono spericolato, lo devo purtroppo uccidere. L'isola della Corsica, ecco, sono nato nell'isola della Corsica. Oh, sta parlando con qualcuno di, della Corsica. Puoi domandare a tutte le stazioni del nord, sud, centro dell'Italia se tu hai fatto un collegamento con Corsica 04, operatore Giuseppe Tito Lombardiese. Cappa. Marsilia, mi ascolti ancora? Domandate, nessuno ti trovi per cortesia. Calzione, buon amico della Corsa, si incontri la Salvenia. Non ti ha chiesto dove ti trovi? Mi trovo a 7 km da Porto Torres, nella villa Sassari. Sto parlando con un certo Giuseppe. Ha detto che lui è nato in Corsica, però vive a Marsiglia. Ah, ecco. Anche prima si facevano bei collegamenti, te lo ricordi con la Corsica a volte, adesso lo buca, non se ne fanno più con la Corsica, prima io parlavo la notte con la Corsica. Ehi, qualche volta però, non sempre, sì, ci sono stati dei collegamenti, però scusate un attimino, mi sento un attimino che c'ho l'Igeco qua, che devo purtroppo annientarlo, chi mi è entrato in questa stanza non capisco dove che volevo entrare, scusate. Buonanotte. E se non ti faceva compagnia? È molto casino. Papà, cos'è lo casino? Cos'è? Pensiamo mon ami, se incontri la Sardegna. Pensiamo mon ami di Marsiglia, se incontri la Sardegna. Dai, dai, dai. Ora, mi ascolti sempre? Certo che ti ascolto forte e chiaro in certi momenti, in certi altri no. Stavi parlando con la Corsica, ho sentito che stavi parlando con la Corsica, confermi. Mamma mia, c'è molto casino. Questo pare napoletano. Attenzione, amico di Marsiglia. Mi dai il tuo QRZ, grazie. Di casino va. Sempre Giuseppe in Marsiglia. Ah, cappa Giuseppe, dai. Sei stazione fissa. Se ti ascolto bene, ma abbassa un po' la camera di qua. Tu arrivi a 9 più 20. 9 più 20, grazie. Qua questa cosa non si può abbassare fissa, capito? Provo a allontanarmi il microfono, va meglio così. Sì, no, ma per cortesia, tu arrivi forte, ma abbassa la camera di coce, no? Non si capisce niente. Dimmi il tuo nome di battesimo, il tuo nome d'operatore, e se tu sei una stazione, in fisse o paramobile o paranottica. Così va meglio. Allora, la mia stazione è una stazione fissa. Il mio QRZ è doppio Brum. Il mio nome Gianni K. Asco, me ne faccia sei. Io lascio così da invece che non si capiva nulla, boh. Gianni, aspetta, faccio una chiamata a questo, va bene. Aspetta, ne vediamo un'altra. Tocca, vai. non dico bene le parole, ma già sento che sarò parlando. Attenzione, binario 41, se ascoltate la terra sarda che chiama. Già esci dallo fuori. Antonio, riprendita. Giuseppe, no, per te, il fuoco tutti, sono tutti come le parapesanti, camionate. Io dico sempre a chi sono io, Giuseppe Marsiglia, capo, ma non stai durando qui. Clamo bocca, capo. Attento Giuseppe Marsiglia, il marsigliese, ci sei? Sì, aspetta, che Luigi Marsigliese ti ascolta. Ah, parai, Gianni Lupiurù sempre dalla Sardegna, dai. Cappa, è una radio veramente bella, complimenti, quando arrivi bene, la radio è proprio stereofonica. Cosa dico a Sardegna? Perché Alessandro ha ancora la sua camera di corti copre 100%. E dove è Alessandro? E dito, ma dito, boh. Ma se io ti metto una compressione! Compressione, capo capo! Ma sicuramente c'è qualcun altro più vicino, magari a te non si sente poi. Ma. La buccia. dopo arrivava forte, qua arriva bombe forte. E questo che ho passato che ha fatto di tu padre, invece è scomparso. E fa così. Ma può darsi che si dipenda da lui, ogni tanto la ragione tu va per dar rato. Va a cambiare, c'è ancora a cambiare. Ma così? Sì, ciao ciao, mi lui Simo, grazie per questo collegamento. Allora ricordati bene che quando io ti faccio un prego e ti dico sono Giuseppe Marsiglia, un marsigliese, ecco, di Corsica 04, Marsiglia, un altro francese. Allora, carissimo, ma io fermo questa frequenza d'ascolto alla prestazione, eh? Allora ti auguro il buon pranzo per adesso e tante belle cose nella tua famiglia. Papà, Giuseppe, dai, tutto ha cambiato dal Gianito più Romo al nord Sardegna, che ti supercordializza, ti augura un buon fine settimana e tante cose belle. Ciao, a risentirci a presto. Salutato, ferma. La ferrata pacata, dai. Presenta la ferrata, tieni già. E mai fammi da guru. Sì, Alessandro, sei sempre in questa frequenza, dimmi se questa frequenza è la tua frequenza monitora. Giuseppino il marsigliese, ci sei. Ah, ora sento anche l'altro. Attenzione, bombolino, se ci sei, almeno tu rispondi. Ok, ci sono. Ah, ma perché questo marsigliese non risponde più? Mi chiama. Se ci sta bene. Ma però fa un pochettino ridere. Mi hai chiamato doppi rumi. Buon Paolo! Sto sempre per calcolo di miei colleghi, senza fine. Ciao Alessandro, avanti, lo marsigliese, amaco Sinocchi. E Paolo, dimmi se tu conosci l'amico Filippo, Filippo. Filippo per Paolo. Filippo, Filippo, se conosci l'amico Filippo. Tu conosci l'amico Filippo? Conosco, no. Se è mezzo... mezzo vola di capo questo. E pare di che si citano con il mondo, no? Sono una persona di una certa età. Facciamo un po' di risate. Comunque già si fa capire davvero, ha detto che lui ha parlato molte volte con gli autisti, quindi in tutta Italia. È imparato così a parlare. Ma capo! Rigore, buonasera, capo a capo! Cosa ha detto Figone? Sta arrivando fortissimo a me. No, adesso non a me. No, cazzo, l'epoca ce l'hai puro, eh? Ha detto, mi piace Claudio Figoschi. Io ho capito, c'è un figone, una cosa del genere. Alessandro! Ma tu sei Alessandro, vuoi? Degna, degna. Attenzione, Giuseppe, mi ascolti? Sì, ti ascolto, ma c'è molto casino. Ciao, sono Federica. Mi ascolti bene? Beh, vi ascolta tutti, ma c'è troppo sul modulazione. Appa, siete 351. Sono Federica da Belluno. Senta, Giuseppe. Ascolto, ma non hai capito il tuo nominativo, ho capito la radio, ma dopo, ma c'è molto casini, molto sul modulazione. Federica! Tu, Giuseppe, non avete sentito? negativo. Gabba. Ma c'è troppo sormodulazione. Arrivati tutti come una bomba. Alessandro, Paolo, Mauro e tutti quanti. Tutti come una bomba. Io non capisco più niente. E Federica, la sigla. Tu? Via. Speriamo che ne c'è qualche un altro. Mi scusi, però questo qua è molto. Senti, una, due, tre, quattro, cinque stazioni ti sono modulando allo stesso tempo e per questa non arrivo a capire le vostre parole. Bisogna mettersi d'accordo quando si parla. Ascoltati Giuseppe Marsiglia! Giuseppe? Ascolta Giuseppe. Senta Giuseppe, mi ascolta. Passiamo una mira marsigliese. Dice il conte di Trasalpeggio. Kappa! Bonsoir, madame. Io ti cuto tra me non so bene. Cara Pavil. Voilà, oui, vous écoutez-moi, moi écoutez-vous. Je t'écoute très bien, mon ami, hein. Je t'écoute très bien. Mon nom est Jean. Oui, moi je vous écoute. Mais français, c'est pas... Moi écoutez-vous, vous écoutez-moi, kappa. Nous écoutons. Au revoir, mon ami, encore. Sentito sole mie. Ma tu, riprendi. C'è molto, molto stazione in frequenza, c'è molto surmodulazione, molto, molto casino. Non qua ci sta bene. La frequenza è pulita, sentiamo la tua voce benissimo. Se ci vuoi cantare un'altra canzone napoletana. Che storia, che storia? Giulio. Che già. Allora, i carissimi italiani di tutta l'Italia, nord, sud, centro, Sardegna, Sicilia, io fermo in ascolto, se qualcuno facci una chiamata e una curiosità della mia persona, io risponderò quando c'è la propagazione, perché dopo c'è questa canzone, quando la propagazione mi felice, io sono pronto da te. Ma quando la propagazione non è messa, io sono lontano da te. Propagazione. Cazzo che ho finito. La mia canzone ti dice che voglio venire da te. Mamma, son tanto felice quando ritorno da te. Solo per te la mia canzone vola. Sì, Cagliari, ti ho ascoltato. Ti ho ascoltato, ma un poco molto casine. Cagliari, buonasera. Cagliari, se proprio che per la Sardegna, Giulio. Ciao, carissimo, che la Madonna ti accompagna. Carissimo. Ariolio, va bene. Ciao, buonasera, grazie per questi carissimo. Dire. Sente, Giuseppe. Sì, Palermo, grazie per queste parole gentile. Oggi c'è di tutto, canzoni, di tutto. Buon fuoco, alla prossima fuoco. Oli, oggi sì. Quando la propagazione è felice, io sono pronto da te. Ma quando la propagazione non è felice, sono lontano da te. Propagazione. La propagazione ti dice che io arrivo da te. Oh, carissimo, mi ha fatto un gran piacere, carissimo, di tutta l'Italia. E abbiamo giocato, abbiamo scherzato, Giuseppe. Ci ha fatto piacere sentirti. Una buona serata, un buon fine settimana. 7351 a te e quella a famiglia, dai. Sì, della parte di qua, perché tu hai detto una parola è veramente gentile. E queste parole, la radio, c'è la radio, c'è la vita, la vita della persona, forti la radio. E dopo c'è la vita, non piacere nella radio. Tu hai detto una parola che mi ha fatto piacere, io ti rispondo a questa parola gentile, sperando che la salute ti accompagni fino alla fine della tua vita. A te, Giuseppe. E c'è lo sfascino che faccio, come dici, che faccio fai rame. Bonjour à tout le monde. Che ho sfacimo che faccio fai rame. Attenzione ancora, se ascolti l'isola della Sardegna che fa chiamata Gabo. Isola di Sardegna, qui Giuseppe Marsiglia ti ascolta, avanti. K Marsiglia. Era Ancona che chiamava, mi sembra. mandato che Ancona chiamasse, proviamo a farlo venire avanti, poi rispondo anche a te. Avanti Ancona, capo. Ancona se n'è andata. Avanti Marsiglia. Sì, Ancona, dimmi se è Giuseppe di Ancona. E no, ma è come tu vuoi, così la vita, C'è molto gelosia. Perché io sto con una piccola stazione, ma veramente una piccola stazione di Marsiglia, con un baracchino di 10 soldi, con l'antenna di un soldo. E vogo verso, perché io aspetto la propagazione, e quando la propagazione è verso me, è verso te, e per questo che ho fatto questa canzone, quando la propagazione, quando la propagazione è felice, io sono pronta a te, ma quando la propagazione non è felice, io sono da te, ma io non ti lascio mai con la microfonia, ti lascio sempre la stazione col mio cuore, della passione della radio. Cappa, anche io sono molto appassionato di radio, Giuseppe. È quasi 33 anni che modulo, dai. Sì, allora, tu e io, perché io non parlo bene italiano, mi faccio, come posso dire, mi faccio capire, ma certe parole non te lo dire. Da ragione, io faccio più di 20 anni, dico la radio, ma la radio per me è un piacere, è un onore di fare un collegamento con tutti i paesi del mondo e di dire come va la tua vita, cosa mangi, cosa ha fatto, e come sei, e come la, non la performance della potenza, dell'antenna, né dell'apparato, capo che le sima, te la mia. Capo, ho capito ciò che vuoi dire, che non ti interessa la potenza, ma ti interessa parlare con tutti, vuoi dire. Ecco, per me non pensa la politica, non pone, e la parola della persona, senti questa parola quando una persona fa un cuore, tu sai, ti dice una bugia, e tu sai, ti fa che tremare il cuore, come un cantatore quando canta una canzone, ti dire. E quindi tu dici, qui c'è una canzone d'amore. Gappa. Sei poeta. No, non poeta. Io parlo con il mio cuore quando sono in casa mia e quando c'è persone che vengono in casa mia parlo con il mio cuore. O se no non tengo bisogno di dire a questa persona, vieni a casa mia a mangiare. Dopo c'è certe persone che vengono a mangiare in casa mia e quando sono fuori da casa dice non ha messo abbastanza olio, non ha messo abbastanza sale, non ha messo abbastanza là, queste persone sono spadette a morte per me. Cappa, c'è sempre quello che deve criticare. Ma vabbè, andiamo avanti. Ognuno è com'è. Io comunque la passione per la radio ce l'ho da tanti anni come te. E ci tengo a averla parlare. Non so come sono da te, se ci sono ancora tanti CP. E no, perché io sono stato radiato, così che si dice. Ecco, non è la mia mamma. La mia mamma mi ha dato la vita, ecco, speranno che io mi faccio capire. La mamma e il mio papà mi ha dato la vita. Ma io oggi mia nonna, chi mi ha fatto a mangiare, mi ha fatto vivere e mi ha parato la vita e il rispetto di tutte le persone. Ti ha dato l'educazione, certo. Sì, mi ha dato l'educazione di rispettare l'altra persona. Purtroppo purtroppo non tutti la pensano così. Io rispetto l'odore, lo esingo. Quindi, se uno è educato, certo che fa queste cose la pensa come te. Sì, ma la stazione che parla con la mia persona, dimmi il tuo nome e la tua zona. Chi sono io? Io sono Gianni Doppio Rumo, te l'ho detto già due volte. Gianni Doppio Rumo dalla Sardegna, città di Sassari. Hai copiato? Boh, mutismo generale, avanti a te. Gigino dice la cosa, un momento, no, la prima stazione che ha fatto un collegamento con la mia persona. Dico che si trova nella Sardegna. Sono io, Gianni Doppio Rumo. Ah, c'è tu i Gianni che mi ha parlato di queste parole. Cavo. Ah, Gianno, la tua Gianno ti trovi Sardegna. La città è Sassari, Sardegna, sì. Aspetta un momento, Gianni, con il tuo permesso di marcare Gianni. Gianni, un momento, Gianni di Sardegna. La città è Sassari, Sassari. Il QRZ è doppio rum. Sì, Sassari, e io ho conosciuto un amico di corazone, un amico che si trovava a Sassari, e lo suo nome di famiglia ed era Tioca. Tu hai conosciuto queste persone di Sassari? Tioca! Sì, Tiroca deve essere, Tiroca, ne conosco parecchi, ce ne sono tanti, non so chi, come si chiamasse di nome. Sì, è un amico di questo mondo, a me non c'è più in questo mondo, ma è sempre nel mio cuore. Tioca di Sassari, ecco, una famiglia Tioca di Sassari. Sarà Vittorio. Se Vittorio è il padre di un amico mio. Una sospensiva per me. Non so che di volte nella conversazione, nella modulazione, io ho trovato un amico di fai 40 anni fa che uno ha praticato la radio e dopo una conversazione ho trovato qualcosa di corrispondente e di dire e siamo trovati cugini. Cosa per la mia nonna è nata, come si dice, a Santa Maddalena. Ah, capo, alla Maddalena. Quindi c'è il cuore sardo. Sì, a Santa Maddalena. E lo suo nome di famiglia ed era Napoleoni. Come? Non ho capito. Com'era il nome? Lo nome di famiglia della mia nonna ed era del mio suo nonno ed era Napoleonini. Pagato. Ho capito, vabbè, comunque sono città grandi e 150.000 abitanti, 160.000 abitanti, quindi ti puoi immaginare quanti Tiroca ci sono, quanti cognomi uguali a quelli di tua nonna ci sono lo stesso. E può darsi che li conosca, non lo so, però bisognerebbe sapere il nome, dove abitano, ecco, allora posso anche risalire a chi sia. Kappa. E comunque, tu abiti solo? No, non abito solo, tengo la mia moglie, tengo due figli, tengo quattro piccoli figli. No, Gianni, no, io ti ricordo queste cose, perché c'è molte persone che sono accattate verso la microfonia, non dici la verità, perché non hanno il coraggio di dire la verità nella microfonia. Ciao, babbo. Come? sono persone che hanno il cuore qua ancora nella frequenza. Io dopo 10 anni che qua era sparito tutto, c'era 10 anni che non si sentiva più nessuno, ho fatto riprendere la frequenza, ho radunato un po' di amici e di cose, abbiamo ripreso tutto e già siamo 7 anni qua che moduliamo, dopo questa parentesi di 10 anni che non abbiamo più modulato. Abbiamo ripreso dopo 10 anni perché nel cuore ti rimane sempre se hai una passione. Gianni, lasciamo passare il temporale, perché c'è molto stagione, non ho che non facile parlare per i lame, voglio parlare in quattro persone, con mio persone e altre persone. Allora Gianni, mi ha fatto un gran piacere, ma io fermo stand-by, Vai, ho capito Giuseppe, mi ha fatto piacere anche a me parlarci, speriamo che la propagazione ci dia il motivo di risentirci, perché mi ha fatto molto piacere, dai, ci sentiamo, salutoni a te e tutto il tuo QRA, buone cose, ciao ciao. Amico di Centro d'Italia, un momento, che saluto l'amico Gianni della Sardegna. Gianni, per fermare la tua frequenza, come si dice, la propagazione così, ecco, cioè la pazienza e il piacere della radio. Allora, tu canti la stessa canzone che canto io. Quando la propagazione in me felice, io sono pronto o di te, ma quando la propagazione non è felice, io sono lontano da te, così, e quando c'è la propagazione io ti ascolto, quando non c'è propagazione non ti posso ascoltare. E così fa la natura della propagazione, la natura della natura. Allora, amico di Centro d'Italia, a te la microfonia. Tutto ci sì. Attorno. Ci sì. Ma la propagazione ha passato verso la tua regione. Stavo mangiando. Dai, ci sentiamo. Sì, Giuseppe Marciliesi, ti ascolto avanti. Sì, ti ascolto bene, ma sto cambio di cuore. Non mi piace, a te ti piace la camera di co, ma la camera di co ti copre la tua parola, quando tu dici Giuseppe, si senti Giuseppe il fondo di scala. Tu non lo puoi ascoltare. senza potenza, senza vuoti, ma quando la propagazione non è felice, io non sono pronto da te, perché non tengo la potenza di 500, 400, 200 watt. E per questo che la mia canzone dice la pura verità, che quando la propagazione mi felice, io sono pronto da te. O dire così, io in cui la mia antenna, la mia piccola antenna, il mio piccolo apparato di 20 watt, se non c'è propagazione tu non mi ascolti, ma tu un metro amplificazione di 400, 600, 1000 watt, io ti ascolto, ma tu non più qua ascoltare, perché non c'è più felicità della propagazione. Diciamo così. Perché tu, il potato che trova un apparato, un amplificatore, dimmi, non so, dimmi quanto volte c'è all'emissione del tuo apparato. Vamos a ver, ah, 50 watt, io tengo in emissione una ventina di watt, tu mi ascolti bene? Signore Giuseppe, cocco il bombolo, gappa! Ah, vi vuol dire che la mia canzone è di una grande felicità, che ripeto questa canzone, quando la propagazione mi felice, io sono pronto da te, ma quando non c'è propagazione io sono lontano da te, diciamo così. Fallo cantare. Cantaci la canzone, Giuseppe. Giuseppe, come fa la canzone della propagazione? Ti piace questa canzone? Gappa, com'è che faceva? Cosa? La devo scrivere, me la canti. Oh, tu devi scrivere lui con la canzone di un marsigliese, un napoletano francese. Gava. Dai, ricantamela che così scrivo le parole. Allora, tu scrivi le parole, sperando che dico le buone parole. Quando la propagazione me felice, io sono pronto da te. Ma quando la propagazione non è felice, perché se la propagazione non è felice, io sono lontano da te, sogno di metà amplificatore, e non c'è bisogno di metà amplificatore, quando la propagazione non è felice, quando la propagazione non è felice, io sono lontano da voi, o da te o da voi. E così queste parole della propagazione. Propagazione, sì, paga azione, non c'è bisogno di mettere amplificatore, vale un purgatore, ma chi tu turbi le televisioni, tu metti la possibilità, tu turbi tutto il mondo della televisione. Bravo, questo qui mi fa tanto tanto. Giuseppe, tutta tu hai scritta questa canzone? Sono io, sì, e qui ce l'amo bene. Sono le parole che mi ha detto di dire che c'è un giorno, Giuseppe, fai capire a queste persone che senza la propagazione non sono niente. Me lo scritti adesso sul tono, almeno. Il tono è della canzone Mamma sono tanto felice, vero? Sì, ho messo questo tono che quando mamma mi è felice io sono tanto fatta. E questa canzone mi ha dato un coso della propagazione, ecco. E come quando è mamma, ecco, mamma la propagazione no, non è la stessa cosa con una mamma, ma è per farvi capire a certe persone che senza la sua mamma non può finire, senza una mamma non viene al mondo, e la propagazione, senza la propagazione non puoi fare discussione. Beh, certo, è giusto che così. Aspetta un momento, Hola. Capa. Caso come sulla risata. Passata la propagazione. Ma troppo simpatico, Grazie. Addirittura la canzone è la più lunga, non è che... quando la propagazione non c'è. Quando la propagazione non c'è. Brava. Sicuramente... sicuramente adesso si è scesa un po', ma troppo simpatico, se ci senti, quando ci senti chiamaci, che siamo sempre nei canali. Allora carissimo, sono di ritorno. Vai Giuseppe, ti stava dicendo un altro amico di Sassari, non so se tu lo ascolti, quando ci senti di chiamarci, che sei troppo simpatico. Ascolta bene, tu stati molto molto grande gelosia, io un piccola stazione con un pezzo di fil di farro che gira del mondo e che molte persone che comprano l'apparato di 1.000 euro, 3.000 euro e si crede più forte che la propagazione, si crede più forte che la natura. E ho detto a questi persone, non è la verità, allora mi hanno detto molte cose, mi hanno detto che io sono un briagono, io non dico un'importa cosa perché io sono un briagono. Ecco, per certe stazioni dell'Italia, del nord, del sud, del centro, di tutta la Francia, di tutta l'Europa, quando io dico queste parole, allora perché questi sono, come si dice, sono feriti, ma che tiene un apparato sofisticato e dice che sono un briagono. Allora tu che pensi di questa cosa, di questa canzone? No, è una bella canzone, ti ti fa capire veramente la realtà delle cose, è vero, e ti fa riflettere, sì. È una canzone, diciamo, con un ritmo già conosciuto, è anche bello. E le parole sono fatte da te, sono parole sentite, quindi sono belle. Sì, come quando canto, quando mamma t'ha fatto, non sappia cosa va, a certe persone scambio le parole. Quando mamma t'ha fatto, non sappia cosa va, ha fatto un casatiello, chi non fa che canta. Gabba gabba, Antonio. Ma mi ascolti Giuseppe a Marsiglia? Io sono veramente in questioni precarie un po', Tu non mi credi? No, Giuseppe, io sono peggio di te lo può confermare Gianni. No, tu non mi credi che sono a 100 km di Marsiglia? No, si crede. Antonio ti diceva che lui c'ha una piccola antenna, un piccolo baracchino come te. No, a me la verità, perché mi casca sopra la testa? E che antenna usi tu, Giuseppe? 9 più 25 è alla grande proprio. Cosa? Buona serata a tutti e buon fine settimana, ciao.